Sì, beh, i numeri sono assolutamente drammatici e ci dimostrano che di fatto quella che ci viene in qualche modo venduta spesso e volentieri sia dal governo uscente che comunque dal gota della stampa mainstream come una ripresa dell'occupazione è in realtà una situazione di assoluta stagnazione del mercato del lavoro. In primo luogo perché la qualità dell'occupazione che ancora esiste è fortemente a rischio e in molti casi non giustifica neanche, diciamo, la definizione di occupato. Ci sono infatti anche a supporto le statistiche provenienti dall'ultimo osservatorio sul precariato dell'INPS che ci dimostra come sostanzialmente la maggior parte della variazione positiva dell'occupazione che si è registrata nel 2016 e nel 2017 è da imputare a contratti di lavoro a termine, contratti di lavoro stagionali o in apprendistato, ma soprattutto il fatto che come dire, con la pressione competitiva internazionale che continua ad aumentare e soprattutto l'assenza di una politica industriale che ormai in Italia negli ultimi 20 anni è ritenuta come una sorta di ferro vecchio, comunque sia un retaggio dello Stato anni 70, sono tantissime le imprese che di fatto stanno pensando o hanno pensato di lasciare il paese e di affidare la produzione altrove, quindi non soltanto Embraco ma anche a Ferpi di Piombino, anche all'Italia, Almaviva ed Ilva, sono tutte situazioni assolutamente critiche in cui il potere contrattuale dei lavoratori risulta essere probabilmente ai minimi storici nel dopoguerra, nel senso che si veniva da una fase di proprio nell'immediato dopoguerra di necessità di tutela del lavoro legata al fatto che c'era la consapevolezza anche, diciamo, da parte di forze politiche che comunque non hanno tradizionalmente avallato la causa dei lavoratori, che una certa stabilità nel tenore di vita della popolazione in generale avrebbe favorito lo sviluppo economico, soprattutto uno sviluppo economico fondato sulla domanda interna. In questo caso invece assistiamo ad un fenomeno di assoluta distruzione del tessuto produttivo, distruzione che non viene in alcun modo, come dire, favorita né dal contesto europeo che obbliga gli stati sostanzialmente a star fuori dall'arena competitiva, ad evitare che invece, ad esempio, come viene peraltro anche indicato nella Costituzione italiana, si possa pensare a interventi pubblici su settori strategici a garanzia dell'occupazione, perché appunto si ricadrebbe, diciamo, nella casistica degli aiuti di Stato. E da un lato abbiamo comunque stiamo comunque uscendo da un ciclo politico negli ultimi 20-30 anni nel quale il fatto che il modello di business delle imprese prevedesse la possibilità di delocalizzare e di risparmiare sui costi del lavoro fino a che si potesse ha di fatto trovato sponda in ogni tipo di forza politica, e paghiamo oggi il prezzo di, da un lato, l'assenza di una strategia vera di sviluppo che guardi, diciamo, alla difesa, diciamo, dell'occupazione nei settori che si ritiene fondamentali. Dall'altro abbiamo come dire, un contesto che ci vuole presentare la situazione come se fosse in qualche modo ineluttabile, come se dovessimo vedere, diciamo, anno per anno la nostra forza lavoro, anche molto qualificata e molto specializzata in alcuni settori, soprattutto il manifatturiero, che è destinata a rassegnarsi, a vantaggio poi di imprese che magari si possono fregiare del titolo di Made in Italy per alcuni step del processo produttivo che vengono portati avanti in Italia, ma che poi il grosso della produzione lo collocano altrove, dove i costi del lavoro sono molto più bassi. E infatti, appunto, tra l'altro in questi anni, come dire, le politiche, le riforme che sono state fatte sono state volte a, in un certo senso, andare incontro alle esigenze delle aziende, soprattutto per quanto riguarda la flessibilità in uscita, però poi appunto a volte le aziende, neanche per motivi di crisi, a un certo punto dicono vabbè, andiamo dove ci costa meno il lavoro. Insomma, non è solo Embraco, come dicevi tu, sono tante le aziende che hanno fatto questa scelta. Però la domanda che ti voglio fare è: la politica non ha strumenti per fermare o perlomeno punire questo fenomeno, il fenomeno delle delocalizzazioni? Non si può, perché dopo non si attraggono più investimenti? C'ha proprio le mani legate? Secondo me ci sono, diciamo, alcune cose che si possono ancora fare, e quando dico si possono ancora fare intendo dire che a un governo nazionale, considerati tutti i vincoli che sappiamo, potrebbe ancora fare, e cioè comunque senz'altro, diciamo, quello, una politica di profondo incentivo, non soltanto fiscale ma anche regolamentare, e anche soprattutto in termini di supporto anche all'internazionalizzazione, magari per le imprese che riescono ad esportare, che i governi dovrebbero praticare a favore delle imprese che mantengono un vincolo occupazionale nel territorio. Cose simili sono state comunque fatte ad esempio durante l'amministrazione Obama, nella fase in cui ad esempio Chrysler aveva intenzione di delocalizzare parte della sua forza lavoro, e moltissime altre imprese, diciamo, del manifatturiero che ancora resistevano negli Stati Uniti. D'altro canto però è innegabile che poter difendere in maniera efficace, diciamo, l'occupazione in questi settori in Italia comporta comunque la necessità per lo Stato di entrare nell'arena competitiva, in alcuni casi ad esempio procedendo a parziale ripubblicizzazione di alcune imprese, in altri casi magari appunto intervenendo anche nei tavoli negoziali mediante un sostegno alla contrattazione collettiva. Si tratta di interventi che però oggi, visto il quadro come dire, normativo europeo, risultano sempre più difficili ed espongono il paese a continue querelle con Bruxelles. Non è un caso che il ministro uscente dello sviluppo economico Carlo Calenda, che probabilmente in altri periodi non avrebbe manifestato così tanto stupore, così tanta opposizione rispetto alle politiche di Embraco, si renda conto poi nelle ultime dichiarazioni che di fatto il paese è reso quasi impotente dall'impostazione dell'Unione Europea, che è comunque un'impostazione che privilegia, diciamo, il mantenimento della libera concorrenza anche quando questo comporta la mobilità del lavoro, che può essere non affatto una cosa positiva, rispetto alla tutela del posto del lavoro e dell'occupazione. In realtà, dal punto di vista economico, tutti gli studi ci dimostrano che non c'è alcuna correlazione né tra il livello di protezione del lavoro e l'occupazione in senso stretto. Quindi è il fatto che sia più conveniente licenziare, più conveniente assumere, che era l'obiettivo un po' del Jobs Act, non è di fatto una componente significativa dell'aumento dell'occupazione. Ma soprattutto questi studi ci dimostrano anche che non c'è correlazione tra la protezione del lavoro e la produttività, e questo in un certo senso è anche ovvio, perché se non si trova una stabilità dell'organico di lavoro, è anche difficile poi ottenere quei guadagni di produttività che consentono di migliorare.